Radio 24 Reportage. Oliver Twist, la scuola dei mestieri, di Valentina Furlanetti. La prima cosa che colpisce entrando nella scuola Oliver Twist di Como è la bellezza. Alla scuola dei mestieri dal pratico si passa al teorico e non viceversa. Nell'annessa Fondazione Cometa, bambini e ragazzi che provengono da famiglie in difficoltà sono ospitati a pranzo e sono aiutati e supportati nei compiti. Ma quello che colpisce davvero, oltre al vociare ininterrotto dei bambini, è il giardino rigoglioso, la cura nell'arredo, le stanze enormi che profumano di legno, le grandi vetrate che si affacciano sul lago incorniciate da tessuti pregiati. Erasmo Figini, designer di interni, è il fondatore di questa cittadella nella città. L'uomo ha bisogno ontologicamente di questa bellezza. Ecco per cui questa bellezza, questa gratuità diventa per me, è diventata, e non solo per me, ma chi vive qua e chi educa qua, uno strumento educativo. Ma come si arriva dal culto per la bellezza a dedicarsi agli altri? Figini la racconta così. Tutto quello che vede che è nato in questo luogo non è nato su un progetto, ma è nato inizialmente da una provocazione in un momento molto particolare e su un sì pronunciato da mia moglie e da me, condiviso subito dopo da mio fratello e mia cognata. Un sì di prendere in casa nostra, in casa mia e di mia moglie, un bambino sieropositivo, questo 24 anni fa, che nessuno voleva perché allora c'era il terrore di questa malattia, del contagio. Io avevo due bambini piccoli, i miei figli che sono rimasti, e ci siamo trovati soli al mondo proprio per il timore di questo contagio. Mio fratello medico mi ha aiutato non solo come medico, ma... E questo bambino che è rimasto in casa nostra per 2 anni sotto la forma dell'affido ci ha aperto all'accoglienza, ci ha cambiato la vita e ci ha aperto all'accoglienza. Questa è stata la partenza. Una partenza proprio inaspettata, perché la mia vita, quella di mio fratello e delle nostre mogli, era una vita totalmente impostata con criteri diversi, diciamo più mondani, e ci ha aperto un nuovo mondo. Per cui è iniziata questa avventura. 2 anni dopo abbiamo sentito il desiderio di aiutarci in questo nuovo cammino, cercando un luogo dove poter vivere vicini, ed è venuto fuori questa casa che era un rudere, l'ho ristrutturata, è il mio lavoro, e siamo venuti a vivere. Poi sono nate altre cose, no? Per cui l'affido residenziale, cioè bambini che vengono affidati dal tribunale presso le famiglie di Cometa, sono aumentati e sono un numero molto alto. Prima della scuola nasce un altro servizio, un affido diurno, che sono 120 ragazzi oggi, da partenza da uno, che vengono a pranzo e poi si fermano per un sostegno allo studio e non solo. E così nasce la scuola professionale, che di cui lei mi chiedeva prima. Io dicevo, se dobbiamo fare una scuola professionale, deve essere rimpostata col mondo del lavoro e il mondo della ricerca. Che vuol dire? Il mondo del lavoro, cioè le industrie locali, gli artigiani, il lavoro locale deve diventare tuo partner educativo, deve venire con te a fare scuola, a formare, e deve poter darmi la possibilità di inserire attraverso degli stage i ragazzi nel mondo del lavoro, affinché i ragazzi in uscita sappiano già, sono già come inseriti nel mondo del lavoro perché l'hanno vissuto. Adesso collaboriamo con scuole europee e devo dire che ci troviamo di più, ma non come filosofia, ma come possibilità di lavoro, no? Con il sistema delle scuole professionali, abbiamo visto in Germania, in Inghilterra, in Francia. Alla scuola Oliver Twist si impara quindi a fare i pasticceri, i tessitori, i camerieri, e si impara sul campo. Il fattore positivo è che, malgrado la crisi, i ragazzi che escono dalla scuola trovano lavoro quasi subito. Lo spiega il direttore Alessandro Mele. A 6 mesi il 70% dei nostri allievi usciti dalla scuola trovano lavoro. In questo momento siamo un po' in difficoltà perché abbiamo più offerte di lavoro che allievi disponibili ad accettarle, soprattutto nel settore del turismo e del salabar, dove abbiamo investito molto, e faremo da settembre partire una nuova scuola per il sesto e settimo anno, quindi dopo la scuola superiore, l'università della formazione e un istituto tecnico superiore per il turismo e l'ospitalità. La nostra scuola ha 500 aziende che hanno preso almeno uno dei nostri allievi in tirocinio. I nostri maestri sono gli artigiani, le persone appassionate al lavoro, che danno ai ragazzi una prospettiva, cioè il desiderio di impegnarsi seriamente con la realtà e con la vita e di costruirsi un futuro. Per noi sono i più grandi alleati. La bellezza è una delle cose che si notano di più, caratteristica, no? Questo in che maniera influenza anche la didattica, immagino? I ragazzi, entrando a scuola, dicevano: ma allora noi siamo importanti per voi. Erano molto stupiti dalla bellezza e noi aspettavamo qualcuno di importante da accogliere. Questo sicuramente ridà il senso di dignità e l'investimento che noi stiamo facendo su di loro. Noi crediamo che loro siano eccellenti e quindi gli diamo questa prospettiva grande che vorremmo che loro raccogliessero. Mi sembra che la risposta sia molto positiva. La bellezza funziona. Bellezza anche al bar, ma non una bellezza antica, anzi quasi industriale negli arredi moderni recuperati. Al bar il caffè viene servito poi da studenti un po' particolari che fanno i camerieri provando sul campo quello che significherà poi fare questo mestiere. E mi chiamo appunto Patrizio Provenzano e ho la mia mansione, diciamo, è quella di docente di sala bar presso il nostro bar didattico. E appunto la mia aula didattica è un bar a tutti gli effetti, perché la nostra filosofia, nella nostra concezione di insegnamento, che è poi quella di tutta Cometa Formazione, è imparare un mestiere facendolo realmente, learning by doing, e anche in inglese, perché appunto il mio bar didattico è anche un English bar, dove tutti gli studenti che arrivano qui da noi devono rivolgersi in inglese. E io comunico con i ragazzi che sono qui in job rotation appunto in inglese. Questo per creare un minimo di vocabolario, perché ormai tutti sappiamo dell'importanza quantomeno dell'inglese in ristorazione e non. La concezione di essere in Europa e non solo in Italia, quindi è molto importante. All'interno della scuola i ragazzi entrano e escono dalle aule. È giornata di prove di maturità. Sorreggono vassoi di pasticcini fatti da loro che stanno per presentare all'esame. Io frequentavo un liceo pedagogico, mi piaceva un sacco, però ho avuto difficoltà con le materie e mi hanno consigliato questa scuola perché a me piaceva anche il disegno. Quindi dai bambini sono passata al disegno e mi sono applicata poi sul tessile. Scusa, difficoltà di che tipo? Soprattutto con i professori. Io avevo problemi, cioè non ero seguita, quando avevo difficoltà non mi seguivano, invece qui è tutto diverso. Hai una minima difficoltà, ti seguono in tutto, anche nei fatti personali, non solo scolastici. E senti in qualche maniera un rapporto più intenso con poi quello che sarà il mondo del lavoro? Sì, perché qua cominci subito a fare lo stage dal secondo anno, quindi ti butti già nel mondo del lavoro e provi a capire la routine, i tempi, i modi in cui poi veramente dovrei andare a lavorare. E ho piaciuto subito perché era come mi hanno accolto, mi hanno subito fatto vedere un po' come funzionava questa scuola, ma soprattutto mi è piaciuto il tessile, per cui faccio il secondo anno di tessile e mi piace un sacco, come ha detto prima Martina, ti fanno entrare subito nel mondo del lavoro e secondo me questo è una ottima cosa. Perché questa scuola invece di un'altra scuola professionale, non lo so, un istituto di design a Milano invece che scuole professionali a Como? Che cioè, qui stanno proprio dietro te, non in generale ma proprio dietro di te. E secondo me questa cosa qua serve, cioè a un ragazzo a questa età secondo me serve. Dall'alto del suo studio sorveglia e guarda questa cittadella nella città Erasmo Figini, vicino a Comunione Liberazione, che vive grazie al sostegno del suo stesso lavoro e di una rete di amici. Noi abbiamo messo dentro, io e mio fratello, tutto quello che avevamo e tutto quello che stiamo guadagnando va dentro dopo. è nata un'associazione, si chiama Amici di Cometa, dove persone decidono di condividere quest'opera e di aiutarla là come possono, o col volontariato o con dei soldi, con dei sostegni, eccetera, così. Dal pubblico c'è una condivisione di questi ideali, di questa ricerca di innovazione nella scuola, per cui c'è una, diciamo, non ci hanno mai ostacolato in questo, là dove hanno potuto ci hanno aiutato sfruttando leggi nuove, possibilità nuove, progetti. Noi viviamo di progetti e di carità. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.